sono baci mai dati, incendi di anime mai consumati, sono urla di silenzio in letti mai disfati. La mia mano sfiora una faccia senza consistenza, assaporando lentamente la pelle di un fantasma. È una tenera danza di occhi che cercano labbra, una complicità mai persa. Ciò che ho perso è la speranza. Baciami fantasma, che la notte è dolce, il sogno si spegne, ma il delirio che ci attende. Sei un nulla importante nel corso di una vita di niente, e me lo chiami amore, per me è solo dolore. Altra Sofia mancata, ennesima desi, porta luce in queste linee confuse, luce nelle mie speranze deluse. Vedo il vero ed il nero nel mio futuro da straniero. Vedo una luce che si spegne dentro belle favole. Vedo un fantasma in lacrime che mi sussurra di non piangere. Quello è vero, ma perché me ne frega un cazzo, me ne frega un cazzo proprio. Però io ti assicuro che io scrivo male, nel senso che non so scrivere, o non so fare dei periodi. No, non sai fare neanche delle lettere. No, dai, io... scrivi come hai imparato in seconda elementare. Ma non la scrittura stilografica. Stilografia. Stilografica. La stilografia. Stilografia. Stilografia si dice. Io non ho una grafia. Io non ho una grafia. Ecco, mettilo in greco, bella grafia. Mettilo in greco. Ma grafia in italiano che cazzo vuol dire? Una bella calligrafia. Jimmy, non è una bella calligrafia. La calligrafia è già una bella scrittura. No, io non ho una bella calligrafia. Si può dire io non ho una bella, non ho una bella scrittura. Calligrafia. Non devi dire scrittura prima. Andiamo a fare, non so. Magari non davanti a vita mia. E neanche via Papa Giovanni, visto che penso che ci passino un po' di auto. Grazie Gesa. Ho fatto una volta qui. Vai. Se la facciamo qua, adesso di là. Cosa dice?